Che per solo ora. Per pietà della mia mente che se ne va, il giorno aspetterà, per me si fermerà un po' di più.